mia prova urgì. O flutto sono lento, gonfia vento la mia vela e tu rindora sole il mio vessi cruento.